E però rispondono tutti a un unico nome. Sai qual è? Io ne conto. Quattro. Ma no, quello è il solito ospite silente che ce l'abbiamo sempre in tutte le puntate del Cox. No. L'ho fotografato, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com potrete vederlo. Ok. Insomma, il nome cui rispondono questi tre e gli altri 15. Sì. Ha fatto il conto al volo. Ciao ragazzi. Grazie. Complimenti. È Charlie. Eccoli, eccoci. Presente. Charlie. C'è anche questo tipo potevamo mettere Charlie Don't Surf. Charlie, cioè che è Charlie? Charlie. Ecco, basta, sì, finisce, sono qui apposta per dirci tutto su Charlie. Ah, ok. Che cos'è? Diteci tutto su Charlie. Intanto benvenuti. Sì, benvenuti al Coxo. Grazie. Ma forse dovremmo alzare un po' il volume, che io mi allontano. Cara mia, in regia ci sono io. E i volumi li fai te. Esatto. Parlate pure. Che... Allora, so... cari, io so che Charlie, innanzitutto so dov'è. È in Bolognina. È già qualcosa, sì. Poi dovrebbe esserci da... questo è il secondo verso il terzo anno? È una domanda controversa. Ah, cominciamo. Mi piacciono queste realtà controverse, piene di arcani, di molteplicità, di... non dico altro, salvatemi. Proviamo... Allora, mi sono preparata un po' sulla storia del Charlie perché è lunga. E questa è Valentina. È ciao. E quello che io so del Charlie da quando sono lì, insomma, è limitato, perché in realtà appunto ha una vita lunga e quindi ho dovuto fare una pre-intervista prima di venire qua. Prove di Cox. Ai nostri amici, insomma, gli ho dovuto chiedere: oh, ma voi da quant'è che siete qua? Perché mi dite 5 anni, 6 anni, 7 anni. Allora, la data esatta è dicembre 2010, quindi tra un po' compiamo gli anni. Ma sì, tipo prima elementare, no? Sì, esatto. Si comincia. Abbiamo 7 anni. Sì. Allora anche la seconda elementare, 7 anni. No, complimenti. E com'è grazie. Stefano, com'è che non lo sapevamo? Io sentivo parlare di Rosso da 2 anni. Siamo distratti? No, probabilmente perché sono mossi bene un po' alla volta. Prima hanno lavorato sul territorio, sul pezzo, a vedere loro le cose che devono fare, poi un po' alla volta sono espansi. Fuga per articolo, scrivi più forte. Ok. Capito? Tutto chiaro? Diciamo che il Charlie è composto da un nocciolo duro di resistenti che sono lì dal 2010. Ok. E invece una serie di persone che si sono, come me, Valentina e Mattia, avvicinate a questo luogo e a queste persone un pochino più in là negli anni. Adesso è il momento dove ci sentiamo un po' tutti... ecco, più nudi. Tutti Charlie, no, tutti Charlie. È un momento dove stiamo lavorando per creare effettivamente un gruppo più organizzato che abbia dei progetti comuni sempre più belli da condividere, insomma. E allora facciamo così, sì. Prima di fare la nostra pausa musicale e di entrare nel vivo della trasmissione, sveliamo un po' l'arcano. Sveliamo. Ma di preciso, di cosa stiamo parlando? È vero. No, vabbè, noi siamo fatti così al corso, ci piace che i nostri ascoltatori stiano sul pezzo, insomma, siano lì che dicono chissà quante, anzi al 333 180 94 94 per dirci che cosa è Charlie. Diteci che cosa è Charlie. Con SMS e WhatsApp. Giffon, dici che cos'è Charlie. No, vabbè, vogliamo fare come quesito oppure, dai, diciamolo noi. Charlie. Diciamolo voi, dai. Charlie è tante cose. Sì. No. È tante cose, ci sta. E dai, già sbagliamo. Però c'è un denominatore comune. Io so che cosa non è. Non è una galleria d'arte. Ok. Ecco, è vero. E già andiamo bene. No, però dai, siamo riusciti con tanta fatica ad arrivare a una definizione. Cioè, ce l'abbiamo fatta, però magari domani cambia. Però oggi siamo un centro di produzione culturale. Yeah, applauso. Wow. Ci vuole l'applauso, perché un centro di produzione culturale... ci voleva. Mi metteresti quel brano con scritto la A, la O e la E strane? Vabbè. Adesso subito me, così? Sì, potrebbe starci. Parla di... di cosa resistenza parla? Al mainstream. The American dream is to be supreme. The bigger, the better, the biggest ever. It's David versus Goliath. You're the kick drum, I'm the hi-hat. We took a giant leap for mankind. We took a small step for cheese. You read stuff on paper. You read stuff on a fucking hill. More isn't less, it's more. For every actor that we got, you got a cast and a crew and a million size other parts. I complain about my belly fat. Looking you die for me. I can't compete with that. Size matters. I feel so small. But we must not forget the size matters. And we got the biggest alphabet. We got your team and letters. You only got 26. Let's see how big you are when you suck a fucking foul. Suck my ass. Size. Bigger, better, stronger, faster. With I-O, I am the master. What makes you think you're qualified for this job? Well, I-O, I got I-O. Champagne for everyone, not me. How will you pay for that? Ha, funny. I-O, I got I-O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, U, V, W, X, Y, Z. Hello, Mr. President? The Norwegians, they have a bigger alphabet than us. What? Bigger? My fellow Americans, we have reason to believe Norway is weapons of mass destruction. Gran bello sto pezzo. Vero che è carino? Sì. È il problema del player, vero? Il player che ritarda. No, in realtà siamo a 2 minuti e 36, la canzone dura 2:42, per cui questo è ancora parte della canzone. Lo rimetto? No, metti sulla musica di sottofondo, che ci siamo già fatti un'idea del lavoro dei Collectivet. Sono bravi. Sì, devo sono dire. Bravi. Bisogna anche il canale di YouTube, è molto carino. Sì, l'avevo visto. L'altra volta quando non trovavo il pezzo. Il pezzo lì. Ciao, bene, siamo tornati. Siamo di nuovo in corsa. Voi intanto vi siete raccontati tutto, io continuo a non sapere niente, ma fino a produzione culturale ci sono arrivati. Adesso ti sorprenderemo. Spero, perché in questa slot del programma spiegheremo di preciso che cosa Charlie. Ok. Che attività si svolgono lì dentro? Più o meno quante persone lo abitano? E quali sono le loro specificità? Ah, abitano è un verbo interessante. È perché è un pochino ambiguo anche lui, insomma, va declinato nella modalità di Charlie. Dice Gif che è una merda. Che cosa? Charlie. Allora, ma dobbiamo sempre fare questo cappellino su Giffo per spiegare ai nostri ascoltatori che lui è l'unico ascoltatore affezionato del nostro programma adora insultare noi e gli ospiti. Dai che stasera partecipo, leggimi. E allora l'ho letto. E l'hai letto, bene, bravissimo. Ok, poi a teatro quello che dice lui porta fortuna, porta gente. Infatti io credo al piedi bus un po' meno. Al piedi. Ah sì, quello io sono soldi invece. Ah esatto. Va bene, in ogni caso ragazzi, scusate la digressione, rimuovete un attimo Gifo non avermene male, però insomma anche tu così non ti posso neanche mettere faccia al muro. Perché poi non ci va, non lo succede, insomma no, non si fa. Diteglielo anche voi per favore. Non si fa Gifo. Ecco. Vedi, questa è la Mattia, perché insomma bisogna essere educati. Poi tu che sei veneto come me, non farci fare figuracce, dai. I famosi veneti educati. No? Sì, una bestemmia ogni due parole, dai, sono stereotipi da sorpassare. Ah, mi dice che ti devo dire che sei gnocca. Va bene. Questo si può fare. Okay. Si può. Chissà se chiedi, mi dice, ancora. Chiedile se è fidanzata. Sei fidanzata, Fedra? Ma in questo momento sì, ci sta andando bene. Ecco, sì, in questo momento sì, hai capito? È chiaro? Vabbè, lo vuoi che lo ripeto? E non sono fidanzata con Charlie, purtroppo. Ah, okay. Se fossi fidanzata con Charlie, la mia vita sarebbe estremamente piena, vero? Sì. Allora, quanto grande è Charlie? 5. A livello spaziale? Sì. Proprio? 250 metri quadri? Una cosa del genere. Sarà. Comunque, sempre troppo pochi. Sì. Sempre troppo pochi. Questi rumori. Ok. Sempre troppo pochi. Ci credo, 18 persone, ma che come si sviluppa? Su un unico piano? È un capannone? No. È un ex capannone, sì, cioè era un magazzino e quindi è la struttura è un capannone. Poi dentro sono stati ricavati dei laboratori, dividendo proprio lo spazio pannelli e pannellini in modo da dare a ognuno un po' di privacy in qualche modo. Perché alla fine da dentro ci sono degli studi, no? Sì, esatto. Sì. Cioè, di base è una serie di laboratori messi nello stesso magazzino. Cioè, okay. Visivamente l'idea è quella. Poi c'è però una sala espositiva in cui che è diciamo, il Jolly, in cui tutti quanti possono arrivarci, possono esporre cose e si possono organizzare cose all'interno. Ah, quindi anche esporre cose al di fuori di quelle che producono i partecipanti a Charlie, cioè i membri residenti con la loro... Assolutamente sì. Sì. Ok. Assolutamente. È quello che vorremmo fare, insomma, è un po' dove succedono le cose, ma soprattutto dove succederanno. Volete svelarci qualcosa in più? Allora. Beh, innanzitutto allora, io volevo dirvi che la stanza più bella ce l'hanno i fumettisti. Se la sono presa loro e hanno preso. Cioè, immaginate di entrare in una vecchia azienda a conduzione familiare bolognese, no? Una piccola impresa. Tu entri, c'è l'ufficio dove sta il boss con la segretaria nella scrivania accanto e invece mo ci sono. Quattro fumettisti. Capito? Quindi loro si sono presi questa stanza che diciamo è l'unica che ha un po' di rappresentanti, di area di rappresentanza. Dai. Mi piace tantissimo questo tour. Quindi noi entriamo, troviamo lì quattro... Che sono dietro quei bellissimi vetri di plastica, plexiglass, quelli un po' come si dice, vedono un vedo, cioè anni 80, completamente anni 80. E loro sono quattro e lì ci sono i fumettisti. Poi procedo oltre, cosa incontro? Abbiamo una specie di stanzetta sottoscala che è buffa perché ci passa sempre gente che magari sta da noi per poco tempo o a volte viene usata anche da noi come ufficio. È veramente molto molto piccola, però è accogliente, insomma. Ricordiamo che quando diciamo che ci abitiamo lì, io devo fare questo appunto perché mi tocca, non abitiamo veramente lì, lo usiamo come metafora. Praticamente l'ultima volta che ho detto sta cosa, io l'ho usata come metafora, poi è venuta la gente a chiedermi, ma ci vivete? E quindi, capito, okay. Tutti gli altri... I carabinieri però non sono ancora arrivati. No. Qui a posto. Okay. Molto bene. Quindi c'è la stanzina invece sotto scala, polivalente ufficio. Che scorreggia lì di dietro, scusate. È la seggiola. Okay. E poi andiamo oltre. L'abbiamo sempre chiamata la seggiola. Chi incontriamo? Dopo c'è lo studio di uno dei pittori in realtà del c'avete anche il più pittore. Pittore di tutti, sì, esatto, che è abbastanza un colpo al cuore entrare nel suo studio perché vieni proprio aggredito dalle cose che ci sono dentro e da quello che fa. Sono robe molto abbastanza forti. Come si chiama sto pittore? Charlie. Si può sapere? Charlie. Certo. Brava. Non è vero, si chiama Riccardo Rossi. Sì. Riccardo Rossi. Sì. Esatto, ha anche un nome d'arte. È l'unico che ha un nome d'arte. Ah, sì. Che è Charlie. No. Ok. Che è Sergio Pietra. È bellissimo. Ah, fantastico. Che è, sì, è effettivamente veramente musicalissimo. E dopo lo studio del pittore c'è un laboratorio di incisione che è il loro. Dove in questo laboratorio siamo cinque incisori che appunto condividono questo spazio di pochi metri quadri in realtà con qualche scrivania e ci alterniamo gli spazi e l'utilizzo dei materiali. Sì, le attrezzature, no? Le attrezzature sono importanti per voi. Comunque è uno spazio appunto che condividiamo con grande passione. E cosa incidete? Scusate, ma questa è una mia materia. Perché nota materia? Perché io insegno tecniche grafiche speciali. Bellissimo. Allora, ognuno di noi ha un po' le tecniche che predilige, c'è chi lavora su metallo, c'è chi invece ama lavorare più sul legno, altri come Valentina per esempio lavorano con le matrici più in cartone, ama molto la monotipia. Diciamo che siamo vari, insomma, facciamo ognuno le. Un po' lavoriamo ognuno. La monotipia. No, anzi, è abbastanza. E ognuno di noi si dice monotono quando il monotipo è sempre diverso. No, scusate. Mi stavo distraendo. Ti stavi distraendo. Sì. Però l'ha ammesso, ha fatto autocritica, incredibile, ragazzi. Continuate così. Ok. E poi ci siamo dimenticati il grande stanzone centrale prima di passare al nostro laboratorio, che è lo studio di un artista particolarissimo che lavora con il fuoco, lui disegna con il fuoco e lavora con un materiale, scolpisce un materiale particolare che sono, dillo Valentina, gli ossicini degli animali, le ossa. Questo artista si chiama Davide Sabba e ha uno spazio molto interessante perché appunto quando si entra nel suo è proprio un antro sì, un deve essere anche molto pregno a livello olfattivo, ma in realtà no, è tutto, pulisce molto, tutto molto bene, sì non c'è nulla di scabroso, è molto è una ricerca molto molto fine, molto ok. E poi in fondo ci sono altri due artisti che lavorano, uno con l'incisione e un altro invece con la scultura, e che si chiamano Paolo e Nicola. I cognomi non me li ricordo, però Migliazza. Paolo Migliazza e Nicola Amato. Amato, ok. E l'Anna dov'è? E l'Anna invece in uno spazio esterno. Sono Sean Von Pahar. E Mattia anche? No, Mattia è con i fumettisti. Ah, sei un fumettista, te? Sì. Sei uno dei fighi. Sì. Quelli che hanno la stanza figa, quelli che. È vero, perché tu sei anche quello che partecipa a Bilbo il Bull. Esatto. Attenzione! Ma avendo la stanza del capo, vi comportate come tali, no? Assolutamente. Cioè, assolutamente. No, perché funziona guarda un po' così, no? Non so, ti ricordi quell'esperimento negli anni 60 dove hanno preso 10 persone, 5 le hanno messe a fare i prigionieri e 5 li ha messi a fare, esatto, sì. A fare i capo, quella storia. Hanno fatto un film adesso. Per cui, capito, cioè, se io domani ti metto una pelliccia e ti metto sopra un SUV, tu improvvisamente diventi stronza come tutte le altre. Come tutte le altre che vanno in giro con il SUV. In effetti sto anche facendo la patente, quindi potremmo anche provarci realmente. Ma proviamoci, va bene. Basta che sia di ecopelle, di ecopelliccia, perché la pelliccia vera no, dai. Molto bene. O sarebbe da essere troppo poco stronzi, non lo so. No, o mettetela tu la pelliccia, scusami, visto che sei anche vegetariano. Certo. Ma scusatemi. Sì. Prima che no, partiamo. Tu stai con... tranquilla che la regia la sto facendo prima io, ma avete ancora 3 minuti, parlate per 3 minuti. Ma okay? È meraviglioso quest'uomo. Charlie sta facendo un miracolo su Stefano. No, non c'entra niente. Il Charlie. W meraviglioso del mondo, del coxo. Allora, io vorrei sapere. Vai. Tipo, perché mi avete detto che questo spazio, oltre ad ospitare gli studi e creare comunità tra di voi, dialoghi, immagino che comunque sia quello il bello di avere degli studi attigui che si affacciano l'un nell'altro, sì. Ma diventa anche, e sempre di più nel vostro desiderio, uno spazio espositivo che accoglie anche proposte di altre. Come funziona questa cosa? Avete un esempio, magari la cosa che avete adesso in installazione e che sta per finire? Sì, allora in questo momento purtroppo è finito questa sera. Abbiamo ospitato una mostra di fotografia molto bella, perché molto bella non si dice nel tuo spazio. Ma non l'abbiamo mica fatta noi. Però si dice lo stesso. Lui ha fatto anche il curatore. È un criticone. Vabbè, dai, posso dirvi criticone. Perché era bella? Perché era bella? Perché è il tuo fidanzato? Perché no! Faccia al muro! Perché era bella questa mostra di fotografia? Allora devo tirare. Dai, non te lo dico. Dai, racconta sto progetto, Monari. Dai, c'era questo progetto di fotografia, era tutto nato dal basso, in Bolognina, è nato da un corso di fotografia tenuto da un fotografo professionista che ha portato in giro quanti progetti sono stati esposti, un numero imprecisato sotto i 6, e queste persone hanno tutte realizzato dei progetti sul quartiere. Questo vuol dire quindi lui ha fatto tipo dei workshop con delle persone che abitano nel quartiere. Sì. Ma è un bel progetto, bellissimo. Scusami, è bellissimo. A Fedra piace. Se piace a Fedra siamo a posto. Scusami. No dai, scusa, continua pure. No, sì, puoi continuare. Grazie. Ancora un minuto e tre. L'ansia della pubblicità della mezza. Adesso, no, vabbè, perché quando faceva la regia lui la pubblicità della mezza non c'era ancora. Andava ai 45. Ah, no. Vabbè, una volta l'ho fatto. Sì, come dicevi tu, di ospiti che vivono il nostro spazio. E noi in questo momento non abbiamo neanche tempo di chiamare persone, cioè, perché veramente succedono le cose sotto i nostri occhi e non abbiamo mai fatto una selezione. Per ora, prima o poi dovremo farla. Come altra capita, cosa da arriva, non ammettere pubblicamente. Arriva una persona, cioè ti propone la cosa e tu dici ok, sì, quando vieni, cioè fino ad ora è stato così. Più che altro ci siamo trovati dentro a delle proposte che coinvolgevano anche noi stessi. Per esempio, questa mostra si è svolta, più che altro questo laboratorio di fotografia si è svolto in Bolognina, e quindi ci siamo incontrati, insomma, per forza di cose. Viviamo nello stesso quartiere e conosciamo tutte le persone che agiscono in questo quartiere, cioè, ci proviamo. E quindi loro cercavano uno spazio e noi glielo abbiamo dato, perché abbiamo condiviso con loro questo progetto. Ora, non volevo dire che non c'è filtro, quindi tutto quello che passa viene su. Beh, che però anche quello può essere un valore interessante nel momento in cui hai una cosa preziosa come uno spazio e la restituisci anche a persone che non hanno un, chiamiamolo, pedigree, no? Assolutamente sì. Misurarsi con anche lo sguardo di voi artisti per una persona che magari ha fatto altri percorsi però sente questa necessità di esternare, di sperimentare, può essere anche reciprocamente interessante. Magari non qualitativamente valido agli occhi di uno che si appassiona che di White tira. Cube, esatto. Uno che se la tira, ma per quelli che per cui vale la partecipazione, esatto. La mostra, al di là di tutto, ha comunque un valore molto alto dal punto di vista artistico, secondo me, perché ha indagato, ognuno ha guardato il quartiere a modo suo, cercando però di creare un progetto unitario. E in più, cioè, questa mostra è stata anche l'occasione sia per loro di esporre appunto il loro lavoro fotografico, sia per il quartiere di venire al Charlie e in altri luoghi della Bolognina durante una cosa che è stata chiamata trekking urbano, ma in realtà aveva un nome, no? Una passeggiata che hanno fatto dentro il quartiere. I 2 minuti di Londi hanno una durata percepita variabile. Sappiamo bene che l'uomo è l'incontrario della donna e viceversa. Ce l'hanno insegnato a scuola, a casa e a dottrina. Ne abbiamo prova una volta cresciuti, quando ci rendiamo conto che l'uomo ha 28 giorni mensili di ciclo e 2-3 giorni in cui sta bene. L'uomo quindi sopravvive socialmente incontrando gli amici solo in quei giorni. Non sono razzista, ma gli uomini di sesso maschile vanno aiutati a casa loro. La donna, modello standard, non è dotata di barba e pertanto nessuno le fa osservazioni sull'estetica facciale, neanche su braccia e gambe, a dire il vero. Difficile che qualcuno la saluti dicendo ciao, come sei pelosa, o shuvdui. Eppure si preoccupa molto della depilazione. In questo è molto simile ad alcuni uomini di sesso maschile, che spesso nell'intimità del loro cesso si umettano anche i capezzoli con l'olio esausto di mandorla. Febbraio ha 28 giorni ed è il mese peggiore per l'uomo di sesso maschile, mentre le signore sono assatanate da giugno a maggio, quindi sempre. Una volta ero a una sagra, ho incontrato una signora assatanata vestita leopardata che quando mi ha visto è salita a ballare sul tavolo. Un'altra volta incontrai un uomo di sesso meschino, diventammo amici e ci mettemmo a raccogliere le cicche sotto lo scivolo del parco giochi fino al tramonto. Improvvisamente arrivò una signora assatanata che salì sulla giostra a girello, cominciò a vorticare gridando tutte le vocali alla rovescia, scese e vomitò. Noi, piccati e seccati, ci trasferimmo a smistare ferro, plastica e piccoli elettrodomestici all'oasi ecologica. Lì arrivò un furgone contenente una pila, un maglione, un CD, un vinile, una PlayStation 2, due PlayStation 1, una parrucca, una musicassetta, una cassetta con dentro il numero un caco ammuffito, un olio su tela, un cinevisor, un'idea meravigliosa, uno stemma dell'Inter, un posacanne in DAS, una boccetta di verni DAS, un episcopio, un pezzo di specchio così da potersi guardare. Il tipo del furgone posò tutto di fronte alla reception gridando «Cazzi vostri!», fece 33 e un terzo giri su se stesso e ripartì sgommando. L'olio sul telo era già esausto, quindi non infierimmo e compilammo una ricevuta segnando 78 kg di carta intestata a noi stessi. Cominciò ad alzarsi la trementina, indossiamo quindi le maschere anti-DAS e partimmo alla volta della saga Puliamo la montagna, organizzata dalle comunità montane della Piana del Sele. Avevamo una decina di biglietti dalla lotteria. Quinto premio, un wifi senza il tablet da cogliere a mano. Quarto premio, una pazza idea di far l'amore con lui. Terzo premio, una salama da sugo. Secondo premio, un episcopio. Primo premio, una Maserati Biturbo. Improvvisamente davanti a noi un camion Euro meno 4 andava a passo d'uomo maschile inondandoci di scarichi color grigio topo e mi svegliai tossendo. È l'ostilità. Già finito? Cozzo sacrale. Mi voglio finalmente. Sabato 19 novembre ci prendiamo cura di te. Tutti a quarantena. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale. Non mi ricordo più cosa devo fare, cosa devo fare. Cox spaziale 100. No, ferma. Ho fermato. Bravo, bravo, non mi sento più, però è perché sono sorda. Perché non ci senti più? Ah, ecco. No, vuoi che ti alzo le cuffie? Ma no, magari ospiti. Loro non. Voi sentite bene? Sì, loro sì, sentono bene. No, ma infatti. L'ho sempre sostenuto. Allora, proviamo. Non toccare quel microfono. Ma siamo, vabbè, insomma, comunque, nella seconda parte, dopo le pubblicità. Sì. Le pubblicità che sono passate. Che cosa c'è adesso? È tornato. Non c'è stato per qualche puntata, ma adesso è tornato. Oggi è tornato. È questo. Lui. L'angolo della menzione. Allora, sabato 19 novembre alle ore 18:30, Stinky Inky, un dialogo sulla calligrafia, perimetro entro cui esplorare i nessi tra la scrittura e il gesto, tra il segno grafico e le sue implicazioni, stratificate attraverso diversi registri linguistici e di significato. Francesco Cagnin e Stefano Carniato. A cura di Giulia Morucchio e Irene Rossini. Opening 19 novembre dalle ore 18:30. Era un po' ambigua come cosa, però mi sembra un progetto molto bello, no? Molto bello, anche perché come quello che segue. È a locale 2, non l'abbiamo detto? Esatto. No, perché è sotto. È sotto. Devo andare avanti. Sì, vai avanti. Certo. Allora, dove? A locale 2 in Piazza Gardino 12/5. Lo conoscete? Il link non lo leggiamo, lo mettiamo solo domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Però continuiamo perché sempre lì, alla Manifattura delle Arti, la stessa sera abbiamo il finissage di Utopian Employment Union of Bologna con Yulkila a Galleria Più. Galleria Più, dai. L'opening della collettiva Of a Wall. Questo lo sapevo perché era un album di Michael Jackson, okay, che perfetto. Quando mi piaceva a Cardr. Esatto, che è di fianco a locale 2. La personale di Richard Nonas, River sì. Run alla P420. River. Alla River P420. River. Ok. Sciorbole, che fatica! Bastava farmela leggere a me. Comunque andate pure avanti che l'altra non la so. Allora, martedì 22 novembre, ore 19:21:15, Uccellacci, 10 anni di Becchi Gialli. Si celebrano 10 anni della casa editrice Becco Giallo con un aperitivo al Chinodromo e la proiezione del documentario di Rocchi De Monte alle 21:15 all'Europa Cinema. Costo 5 euro con tessera Chinodromo o AIX. AIX. AIX. Io non ho mai capito che cos'è sta tessera AIX. Te lo spiego dopo, te lo spiego dopo, dai. Come si dice? Adesso abbiamo com'è che era last but not least. Sì, oggi l'ultima menzione. L'ultima menzione, la dici tu, Mattia? Come no? La sai a memoria? Ovvio, ormai me la sogno la notte. E tra un po' ce la sogneremo anche noi. Perché poco ma sicuro. Senti che bella voce che c'ha, scusa. No, bella... infatti devo abbassarlo perché c'ha un tono di voce spaventoso. Tu ma, indietro. Mi metto più lontano. Ma perché la settimana prossima che c'è Bilbo, giusto? Settimana prossima. Ma non anticipare, dai, perché mercoledì 23 novembre al Checkpoint Charlie in via dei Rosaspina 7A ci sarà l'inaugurazione della mostra Gli Scogli di Taranto, che è una mostra su un reportage giornalistico a fumetti che è uscito in prima battuta su il portale di informazione disegnata Graphic News e che in questo caso viene messo in mostra con anche degli ospiti che vengono da Taranto e che sono venuti a Bologna per raccontare di come fanno rigenerazione urbana nella città vecchia di Taranto. Checkpoint Charlie. È finito? Posso fare lo stacco? Puoi farlo. No, pensa perché pensavo che ci fosse qualcos'altro. No, ma io ho una domanda. Ma a che ora è questa cosa? Non l'abbiamo detto. Alle 21. Io avrei una domanda. Ma com'è il reportage illustrato? Checkpoint Charlie. Bella domanda. Adesso ve lo spiega. Dai, te lo spiego. Spiegaccelo. È un articolo di giornale, ok? Solo che invece di utilizzare solo le parole si usano anche i disegni. La questione è che non si usano come riempitivo, ma si usano per dire qualcosa in più, per creare magari un'atmosfera o far capire delle cose che a parole sarebbe più difficile. In particolare a Bologna, ora non so se conoscete, esiste questo portale che si chiama Graphic News, con cui collaboro da un po', da un annetto, ha fatto un anno e mezzo da poco, quindi è relativamente recente, ma hanno già pubblicato più di 60 storie, quindi un bel numero. E reportage a fumetti si fa come un reportage normale, solo che dopo ci metti un mese e mezzo per disegnarlo. E quindi c'è anche tutta l'interpretazione personale, esatto. La sedimentazione dell'esperienza e la traduzione in grafica. Esatto, la cosa difficile in una cosa del genere è l'immediatezza, però quella più facile è riuscire a vedere le cose più a freddo, riuscire magari a creare delle trame, delle congiunzioni che non sono proprio così scontate in una scrittura a caldo derivata dagli appunti. Interessante. Bello, si può dire? Si può dire bello. Bello? No, è bello, un bel progetto, mi piace. Je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dire comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dire comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Qui m'y perdonne, mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents, est-ce que je dois baisser les bras, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Océan, Muso, tiro parti, je t'emmine à Muso. Che forse non te l'avevo detto, Fedra, che sto studiando francese. Ah sì, su Duolingo. Duolingo. Certo. Lo conoscete anche voi? Sì. Io pure ci ho provato, però è impossibile scrivere in francese dal telefonino. No, ma neanche i francesi scrivono in francese dal telefonino. È vero, no, no. È impossibile. Sì, usano l'inglese, fa molto prima. No, tipo non mettono gli accenti, non certo. Mettono niente. Ma sì, come facciamo noi, dai, non è che noi ci mettiamo lì a fare gli apostrofi. Posso farci sentire una cosa? Fammi sentire qualcosa. Ecco, grazie, mi sento me. No, grazie a te. No, allora, ritorniamo. Ho fatto il pasquino della situazione, come ti senti? No, molto bene. No, stavo leggendo i messaggi non ripetibili di Gifo. No. Vabbè, Fallo con lo spelling come gli americani. No, va bene così, dai. Vi ho interrotto completamente, scusate. Grazie del pensiero. Ci stava Gifo. Bene. Grazie del pensiero. Esatto. È sempre bello averti con noi, continua a seguirci. Speriamo che ci sia anche la Susi Muso Grigio che magari ti ribatte in qualche modo. Ah, giusto, chissà dov'è la Susi Muso Grigio. Il Gifo ti sta scrivendo dal telefonino della radio? No, ma naturalmente mi sta scrivendo sul Facebook personale come al solito. Non va bene, bisogna educarli meglio. Comunque, allora. Questa è la 159esima puntata di Coxo Spaziale. Ah, ecco, ti sei ricordata, siamo al 159. Sì, l'ho letto nel foglio delle menzioni fantastico. Prima. E vede come protagonista indiscusso Charlie. Mm-hmm. E in studio una rappresentanza di Charlie che è formato da 18 persone. Però lo spazio si persone. Chiama Checkpoint Charlie, giusto? Esatto. Cioè voi siete Charlie, ma lo spazio è Checkpoint. Ok. Sì. No, perché sì. È bene fare chiarezza ogni tanto su alcune. Ed è uno spazio che ha una lunga storia e adesso giunge a compire, definire la propria necessità d'uso, la propria realtà, le proprie. E in particolare abbiamo appena visto quali sono due progetti, un progetto che sta finendo di essere ospitato appunto da questo spazio, che è una mostra fotografica sì. realizzata attraverso un laboratorio sul territorio, mentre invece il prossimo lavoro che verrà inaugurato il 23 alle 21 per Bilbo il Bull sarà un'esposizione di illustrazioni. Cioè, mentre noi siamo qua a parlare, tavole a fumetti. Qualcun altro sta già stuccando i buchi della mostra di fotografia, imbiancando e montando la prossima mostra. Io sono un grande esperto di musica brasiliana. Okay. Mi ha scritto Gifo. Ah sì, e perché non lo leggevi? No, questo me l'ha scritto dopo. Ah, ok. Va bene. Grazie, Gifo. Prego. Ok, ma allora questa cosa mi piace. Cioè, adesso voi sì. siete qui che siete venuti a promuovere ma lo sì, spazio. Sì, anche perché sono in un casino, no? Quanti siete? In 18. 18. Ha voglia stuccare dei muri. E poi mi sa che voi quando ristrutturare finito ogni qua andate là. Ma anche no. Per stasera una biretta. Magari. Ah, è arrivato qua. E a parte la questione, però, io volevo capire meglio come. Perché allora, Valentina mi ha raccontato all'inizio che prima c'era già un gruppo, poi siete anche tu, mi hai confermato che siete subentrati anche voi negli anni 90. Ma come nasce questo posto? Alla fine siete anche vicini all'XM, è un posto. È un posto che è stato avete occupato oppure l'avete occupato come no. tutti i posti lì attorno. No, perché no. Pare che sia l'unica possibilità, no? Occupare è una possibilità e all'epoca si fece una scelta meno drastica che è stata quella di prenderlo in affitto da un privato. Nel senso che Davide e Riccardo, di cui abbiamo parlato anche prima, semplicemente hanno chiesto degli amici se sapevano se c'era un posto dove andare per lavorare, no? Per dipingere, scolpire, eccetera. E hanno trovato appunto degli amici che già avevano preso questo posto e che lo stavano per lasciare, quindi fortuna delle fortune loro si sono presi cura di questo posto e lo tengono, insomma, loro sono gli storici, quindi sono lì dall'inizio. Gli stoici, sì, storici. Ne hanno viste. Sì, ne hanno viste. Ma la cosa che a me piace sempre ricordare è che si può fare, si può prendere in affitto un posto, ci si mette insieme, si condividono le spese, ma si condividono anche tante altre cose belle. E non lo so, tipo io, Lara e i nostri colleghi incisori abbiamo comprato un torchio insieme, per dire. Che da soli che non avremmo mai potuto avere. Cioè, quindi diciamo che questa cosa di entrare in uno spazio sostenendolo sia per l'affitto che per le spese... non solo non è qualcosa di totalmente affossante se sei un giovane artista, ma si può fare e ti può anche spronare verso una direzione di produzione più organizzata, se vogliamo, più professionale. Sì. È questo, dai, lo scopo. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Sono a Praga, tra Kafka, il cioccolato e architetture che non ce la fanno a coprire il passato sovietico della sua urbanistica. Fa freddo, molto freddo, e umido, molto umido. Ma i cittadini di queste longitudini sembrano non accorgersene, mostrando disinvoltamente avambracci tatuati e cosce snelle di un altro pianeta. Ha dentro un tronchi. C'è una certa morigeratezza di fondo a cui bisogna comunque adeguarsi, e non è facile quando la birra costa meno delle patatine. Cammino, osservo, tutto è grigio, bigio, ligio al dovere di 40 anni di sovietico rigore, e intanto il cielo sgocciola come in una tela di pasquini, e mentre cerco di decodificare la grafia misteriosa di una via del centro, mi abbandono al boemo che è me, pensando. Ruge kvetov kvetno detade. Creatività generica. Beh, dai, sono contenta perché sto giro Zino, che mi piace tanto, è riuscito a non dire le parolacce. È stato bravo. No, sì, ma hai sentito bravo. Che voce che aveva? Me l'ha spedito stamattina. Fatto bene. Da Praga. Fatto bene. Tutto, ha preso tutto un po' di mal di gola, mi sa. Vabbè, però è ancora più... No. Forse era il Charlie, in realtà. Soprattutto quando dicevo che è freddo e umido, mi ha fatto un po' pensare. Freddo e umido è Praga, il nostro Checkpoint Charming. Checkpoint Charming, sì. Come a Praga. Ha queste caratteristiche. Ho capito. Che non è il massimo per gli incisori, cioè neanche per asciugare le incisioni. E come facciamo? Dunque, se voglio venire a stampare le mie incisioni, posso venire a usare il vostro torchio? Che bello. Sì, ti devi mettere In fila, devo mettere la giacca. Devi essere fisicamente pronto, ma diciamo si che può devi fare. Essere motivato. Ecco, sì. Oppure tra marzo e ottobre. Ah, ecco. Perfetto. Ma posso chiedere una curiosità personale? Ma la Anna Carminati cosa fa? È vero. Perché prima poi ci siamo interrotti. Lei scolpisce il marmo ed è in una parte, perché il Charlie è questo grande capannone, ma in realtà ha un'altra struttura che è nel cortile, che raccoglie una falegnameria. E anche lo spazio dove c'è Anna e anche lo spazio dove c'è un altro artista che lavora sempre con il legno, quindi sono in tre e sono Anna, Lorenzo e Gianfranco. Ecco. Sì. E hanno lavori diversi, ognuno lavora per sé, però condividono e Silvia, questo. Che è arrivata... Ah, c'è anche Silvia, è vero. Cioè, sai che siamo 19, ragazzi. Siete 19. Sì, ogni tanto arriva qualcuno. Però Silvia, diciamo, se prima erano esperto di falegnameria. Se prima erano 17 più una curatrice, adesso sono 18. A ballare la legale, la curatrice adesso. Siamo fuori. Ah, la curatrice è la nostra Chiara Ioli, il nostro boss, dai, il boss della curatela. Ho capito, sì. Bene, no, adesso mi ha incuriositissimo questo spazio. E allora chiedi qualcosa. Facci una domanda. Gliel'ho già appena chiesto se posso venire a stampare. Una domanda giornalistica, no? Una domanda giornalistica. Sì, un po' domanda opportunistica, va bene. La domanda giornalistica è chi è il vostro ufficio stampa? Che non mi è... No, perché lui fa anche quello, evidentemente. No, cioè ti vuoi candidare no, assolutamente, no, assolutamente no, sarebbe difficilissimo. No, assolutamente. No, dico, chi è il vostro ufficio stampa che non vi avevo mai sentito nominare? Perché non esisteva veramente. Cioè, il punto invece è fondamentale. Il punto del ciale è che si è aperto al pubblico da relativamente poco. Ah, ok. Ecco perché eravate nascosti. Ecco perché. Per molto tempo è stato solo un posto dove le persone andavano a lavorare. Certo. Laboratori artistici, con ognuno nel suo laboratorio. È buono. No, il che devo dire che sembra una cosa seria, vero? No, no, questo va a vostro favore, perché la prima cosa che un posto nuovo cerca di fare è proprio apparire, anche quando ancora il contenuto non c'è. Ma mentre invece voi avete appunto lavorato duro per poi cominciare a fare una programmazione. Adesso avete una programmazione, giusto? Sì. Per i prossimi due mesi. Poi dopo. Ma ce la raccontate? O è ancora troppo prematuro? E che ve l'abbiamo già raccontata. Perché la mostra di Biblio Bull va avanti, e poi c'è un'altra mostra. No. Cos'altro c'è? Diciamo che abbiamo un evento a dicembre, ma è ancora in force, quindi no, la risposta è no, non abbiamo una programmazione. No, come, cioè, allora ce l'hanno, però fino a che non è proprio se la tengono appunto, per loro, ma infatti e allora sai cosa facciamo? Sono un po' timidi, quando ce l'hanno, siano in 19. Quando ce l'hanno ce lo dite una settimana prima. Metteteci, e il venerdì prima ci tornate a trovare, magari noi voi tre Charlie, anche altri tre Charlie e un po' di tre alla volta ce li facciamo tutti. Ok, ci sto. Potrebbe ce li essere. Facciamo tutti un po' alla volta. capito Giffo. Va che bene. Cos'è l'affitto? Ah, ecco, guarda, è arrivata anche la Susi. Oh, ciao Susi! Lei dice cose carine. No, in realtà non ci sta ascoltando. Ah, va bene, chiedeva solo un'informazione. Sì, esatto. Senti, cosa facciamo? A che punto siamo? Sincronizziamo gli orologi. Siamo così. Sto ascoltando. Coxo spaziale. Vabbè. Mancato un pezzo. Sì, ma mi fai sentire quello lì del direttore? Ah, cavoli, dov'è? Non ce l'abbiamo mai. Non ce l'abbiamo mai. Certo che ce l'abbiamo. E invece stavo pensando, qua c'è un mulatu astakke. Come si dice? Che cos'è? Mulatu astakke. Astakke. Io sono anche un po' dislessica, non l'avevate capito, vero? Beh, un po' difficile da leggere. Vabbè, noi diciamo astakke. Metti su mulatu di solito, quando vogliamo sentire mulatu. Ma perché che come succede? Cioè, perché mulatu? Succede che abbiamo questo computer del 91, cioè con lo schermo profondo qualche metro, che serve solo per mettere sulla musica, fortunatamente, non ci dobbiamo fare altro. E c'è al centro del laboratorio, quindi a volte appunto c'è qualche DJ spontaneo che mette su qualcosa. E io non c'ero ancora al Charlie, ma mi dicevano che andavano molto di moda i Pixies tempo fa, e invece ultimamente va un sacco questa musica un po' più di sottofondo, meno pesante. Quale metto? A saperlo. Questo? Ok. Speriamo non ci sia la pubblicità. Tirami sul canale. È su. Non c'è. Va bene. Che è sta roba? Ma la... Un momento piuttosto momento piuttosto coxico, direi. Ma siamo tornati? Siamo un po' tornati, ma sì, era abbastanza coxica la situazione. Beh, questa è l'atmosfera sonora del Charlie di questa stagione. Ho capito. No, però qua dicono non, io non l'ho mai sentita. Ah, ecco. No, mi è da un bel po'. Adesso sì, adesso l'ha riconosciuta. Beh, direi teniamola, facciamoci questa charlitudine anche noi del Cox, lo prendiamo a prestito, lo teniamo in sottofondo intanto che andiamo a chiudere con questa super mega galattica 159esima puntata di Cox, che ha visto Stefano Pasquini ritornare alla regia e io ritrovarmi di qui insieme a dei super mega galattici a soffrire di là dal vetro. Ma che soffrire, me la sono passata alla grande insieme alla Lara, Mattia, Valentina, che sono 3 di 18, forse 19. E ci siamo già messi d'accordo con tutti dei giri a gruppi di 3 che ce li facciamo tutti un po' alla volta, quelli del Charlie, ok? Come vuoi tu, io. Vabbè, io puoi, mi venire, adego, puoi ritornare come sai, anche tu da questa parte del vetro. Sì, tornerò dall'altra parte del vetro. Ragazzi! Con la faccia al muro. No, è stato, no, dico, era la 159esima puntata. Sì. Come lo festeggiamo il 160esimo compleanno di Cox Spaziale? Che cos'è, il 24? Non lo so, non è... oggi è il 18 più 7. Andiamo al concerto di Marcello Corvino e non veniamo al Coxo. Ah, facciamo così? Sì, dai. Ragazzi, come la intitoliamo questa puntata? Checkpoint Charlie? Checkpoint Charlie, sì. Dai, ok. Allora, domani su www.coxospaziale.blogspot.com le foto per vedere i super mega galattici ospiti di stasera e i link per gli eventi prossimi, la prossima settimana, come al solito le menzioni. Vai. Sei spaventosa. No, dai, salutiamo i nostri ospiti come si deve. Tu che sei da quella parte. Cosa si fa? Si danno i bacini? No, li saluti. Ciao. Ma no. Ciao, grazie dell'ospitalità. Elencando i loro nomi, come ciao, fanno i professionisti. Ciao Valentina Monari, grazie per essere stata con noi. Prego. Ciao Mattia Moro e buon lavoro, mi raccomando. Grazie. Fatto da rima. Cara Lara Norscia. Grazie per essere stata con noi e anche per non aver picchiato Pasquini, che ce l'aveva anche a portata di mano. Vabbè, Pasquini lo picchiamo dopo. Va bene. Picchiatemi dopo. Grazie, no? Caro Stefano W. Pasquini. È stato un piacere. Purtroppo non sono riuscito da qui a lì, non sono riuscito a mettere il nostro direttore che dice: e dopo questo basso livello di radiofonia. Sentiamoci la sigla. No, non è. Non era così? La pubblicità. La pubblicità? Sì. Ma no, fammi mettere un pezzo. Ciao, pezzo, ospite silenzioso. Ah, Keep Your Name. Ci sta, dai. Il mio cantante preferito è tornato dopo anni e anni di silenzio. Fantastico. Però questa versione lenta non mi piace. Non ti piace? Allora mettila sulla pubblicità. Avete ascoltato Coxo 159. What we We'll keep them separate and you'll keep your name. You keep your name. You keep your name. You keep your name. A place that we both know. It lives in our hearts. We built it together. Fear is a manacle, love is unchained. So we'll keep on separate and you keep Ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM.